Radio Popolare presenta La Caccia, Caccia all'ideologico quotidiano, una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Buongiorno, il programma prevede di parlare di tutti, del pastore che sta davanti e della mansuetudine di chi sta dietro, dell'argomento per eccellenza.